È qui che scrivo col basso che mi gira in testa. È qui che ogni singola idea viene espressa, dove a volte qualche pensiero cupo si innesca e sembra non voler abbandonare la mia testa. E mi lascio cullare dal sonno di una batteria. Rifletto sulla situazione che si presenta sulla via. Situazione tragica di casini fradicia, casini ma troppo presenti in questa vita sudicia. Casini mentali per quegli esseri che siamo e non sappiamo di che rivoluzione ci occupiamo. Soffriamo come pesci appesi all'amo, e più ci dimeniamo più sostendo ci leghiamo ai nostri nodi. Pensieri stampati in mente come chiodi, e sempre più spinti verso pensieri ignoti. Gocce d'acqua ci sfrano la pelle, pioggia fredda labile sotto cui sono troppo fragile. Non mi chiedere perché, non so dare spiegazione ad ogni mia illusione, forse quanto un'emozione. Non mi chiedere perché, non so dare spiegazione ad ogni mia illusione, forte quanto un'emozione. Basta, non voglio più pensare né soffrire, ma solo fuggire dai pensieri, emigrare, atterrare in un'osi di pace per dimenticare esperienze vuote e quindi ricordare cose spensierate sullo sfondo di notti stellate, storie cantate, storie vissute che non vogliono essere scordate, possono solo essere insegnate. Sarebbe bello vivere senza pensare, soltanto vivere e cercare di scoprire cose sempre nuove, fatto di luci, colori e suoni, e sepolti nei meandri profondi dei miei pensieri, coscienti di ciò che è il mondo più di caro, ciò che divido con la gente di cui vado fiero. Non ho nient'altro, eppure sento di aver tutto, a questo mi leggo cancellando tutto il resto. Non mi chiedere perché, non so dare spiegazione ad ogni mia illusione, forte quanto un'emozione. Non so dare spiegazione ad ogni mia illusione, forte quanto un'emozione. Solo un pensiero mi sovrasta la mente, un tarlo, pensiero oscuro troppo insistente. Ma alla fine che senso ha senza pensieri, compagni di vita, amici di oggi e di ieri. Ma non chiedermi perché, spiegazione non so dare. So solo di non voler dimenticare delle mie esperienze. Non mi farò mai sopraffare, da loro voglio imparare, imparare a sognare. Non mi chiedere perché, non so dare spiegazione ad ogni mia illusione, forte quanto un'emozione. Non mi chiedere perché, non so dare spiegazione ad ogni mia illusione, forte quanto un'emozione. Prova a pensare a qualcosa che viene dal cuore, una ricerca costante nel tuo stato interiore. Vedrai che anche se non hanno senso quelle parole, sono più grandi di qualsiasi valore.